Letture di Radio 24. In Parlamento è quasi vacanza e la grande bonaccia delle Antille sta arrivando. Così, tra le tante proposte al vaglio, troppo poche stanno diventando legge. La politica è in vacanza. Non i politici, però. Loro lavorano fin troppo. O meglio, urlano, sgomitano, s'accalcano in TV. Non si sa mai. Gli elettori potrebbero distrarsi. Sicché in Parlamento è calata la grande bonaccia delle Antille, avrebbe detto Italo Calvino. Vanno in votazione solo i decreti legge, altrimenti scadono e dopo sono guai. Ma la riforma dello Stato? Non ve ne traccia, al pari della soppressione delle province, del bicameralismo prossimo venturo, del premierato, per non parlare poi della legge elettorale. E il nuovo articolo 41, che a giudizio del governo libererà da vincoli e laccioli la nostra economia? La Camera l'ha messo in calendario a giugno, sempre che la Commissione abbia concluso i suoi lavori. Vatti a fidare quando in Senato 22 disegni di legge attendono da mesi che la Commissione Bilancio esprima il suo parere, mentre altri 7 sono orfani della relazione tecnica da parte della Ragioneria Generale. Evidentemente i politici italiani sono più pensosi di Diogene dentro la sua botte. E la giustizia? Un'emergenza a corrente alternata. Perché dopo gli annunci, i dibattiti, gli appelli, ha avuto il sopravvento questa lunga pausa elettorale. E dunque stop alla riforma costituzionale, stop alla legge sulle intercettazioni, al processo breve, alla prescrizione fulminante, stop anche ai temi etici. Già che ci siamo, stop all'elezione del 15° giudice, che oramai da un mese manca alla Consulta. Però con calma, senza fretta. D'altronde quest'anno l'Aula del Senato ha lavorato per 176 ore, quella di Montecitorio ha dedicato 143 ore appena all'attività legislativa. Ma nessuna democrazia al mondo può correre con un Parlamento zoppo. Le istituzioni rappresentative assolvono a una duplice funzione: riflettere e deliberare. Invece queste Camere, immerse in una perenne campagna elettorale, non sanno fare né l'uno né l'altro mestiere. Non riflettono l'energia che, nonostante tutto, accende i nostri giovani, i ceti produttivi, i lavoratori al servizio dello Stato. Non decidono più nulla perché i politici italiani hanno ormai paura dei propri elettori. D'altronde si sa come vanno queste cose. Tu scrivi una legge che parrebbe detta da Minerva. Poi c'è sempre qualcuno che spara a palle incatenate. Sarà anche vero, ma non è affatto una buona ragione per starsene inchiodati al palo. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale La bonaccia delle Antille di Michele Ainis dal Corriere della Sera di mercoledì 25 maggio. Letture di Radio 24. Il satellite ha individuato nuovi tesori nascosti nell'area di Saqqara. Sepolte sotto la sabbia ci sono migliaia di tombe, villaggi e 17 piramidi mai scoperte prima. E gli scavi hanno confermato le fotografie scattate dal satellite. Scoprire una piramide egizia è il sogno di tanti archeologi. Ma non è tempo di Indiana Jones, che fuggono lungo cunicoli sabbiosi o nella giungla. Oggi ci pensa il satellite, assai più preciso, anche se non altrettanto romantico o cinematografico. Proprio un occhio volante ha scoperto nell'area egiziana di Saqqara 17 nuove piramidi. Le immagini agli infrarossi scattate a 700 km di quota lasciano pochi dubbi. Le piramidi, alle quali si aggiungono un migliaio di tombe e circa 3.000 insediamenti abitativi, sono sprofondate nella sabbia, ma si distinguono nettamente. La pietra, il granito, i mattoni di fango con cui sono fatte è materiale più denso, ben riconoscibile. I primi scavi confermano le scoperte. Un'immagine straordinaria pubblicata dalla BBC permette di ripercorrere con chiarezza il reticolo delle strade e le case dell'antica città. I dati sono talmente precisi che è possibile ricavarne una mappa. Merito degli infrarossi, tecnologia che in futuro, secondo le autorità egiziane, potrà contribuire anche a proteggere i beni culturali e archeologici del paese, visto che durante la recente rivoluzione alcuni siti sono stati saccheggiati. Le immagini possono dirci in quale periodo una tomba è stata visitata dai ladri. Potremmo essere in grado di avvisare l'Interpol, che si metterà in allarme per intercettare i reperti messi in vendita. Buone notizie intanto sul fronte del recupero delle antichità trafugate dal Museo Egizio del Cairo durante la rivoluzione. L'egittologo Francesco Tiradritti annuncia che ne sono state ritrovate altre qualche giorno fa. Si tratta delle trombe, del ventaglio e della statua dorata sull'imbarcazione di papiro di Tutankhamon e di uno shabti di Yula. Erano in una borsa all'interno di una stazione della metro cairota. Soltanto una minima percentuale dei tesori dell'antico Egitto sono finora stati scoperti. La sabbia conserva ancora molti segreti. Un esempio è l'area di Saqqara. Le autorità egiziane finora non erano troppo interessate. Adesso, grazie al satellite, hanno cambiato idea e parlano di uno degli insediamenti più importanti del paese. Ma ce ne sono centinaia coperti dal limo del Nilo. Aveva ragione Eugenio Montale. La storia non è poi la devastante ruspa che si dice. Lascia sottopassaggi, cripte, buchi e nascondigli. C'è chi sopravvive. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Un occhio dallo spazio scopre 17 piramidi di Carlo Grande, dalla stampa di giovedì 26 maggio. La Corte Suprema cinese, con una decisione storica, ha deciso di sospendere per 2 anni le esecuzioni capitali nel paese. Le condanne capitali rimangono solo in casi estremi, che tuttavia si rifanno a principi ambigui. Per questo l'ottimismo nei confronti della decisione deve rimanere cauto, nonostante le autorità cinesi dicano che questa sospensione sia un test in vista dell'abolizione definitiva. La Cina ha mosso un passo importante verso un maggior rispetto della vita umana. La Corte Suprema del Popolo, massimo organo giudiziario della nazione, ha chiesto a tutti i tribunali di sospendere per 2 anni la pena di morte. Nel suo rapporto annuale, la Corte ha stabilito che le condanne capitali siano eseguite solo per un numero minimo di criminali e per reati di estrema gravità. I giudici si sono richiamati ad una politica della giustizia temperata dalla pietà, invitando i tribunali a non emettere sentenze di morte se non assolutamente necessario. Giuristi cinesi ed esperti di diritto internazionale hanno definito la moratoria di 2 anni un evento storico. Il codice penale cinese stabilisce che se una condanna a morte viene sospesa per 2 anni, si tramuta definitivamente in ergastolo. Interrompere le esecuzioni fino al 2013 equivale dunque a cancellarle per un biennio e per migliaia di detenuti. L'agenzia di stampa ufficiale ha osservato che la decisione servirà come test in vista di una possibile abolizione della pena di morte in Cina. Rimane l'ambiguità attorno ai crimini che saranno giudicati di estrema gravità. Ed è per questo che da ONG e associazioni umanitarie arriva solo un segnale di cauto ottimismo. È però un passaggio epocale che avvicina la seconda potenza economica del mondo a valori condivisi dalla maggioranza dei suoi interlocutori occidentali. Pechino si appresta ad esercitare una leadership globale e il Partito Comunista appare deciso ad accelerare le riforme, specie sul piano dei diritti umani. La sospensione della pena di morte, rientrata in vigore nel 1979, inizia a risolvere uno dei problemi più vergognosi del paese. Il numero delle esecuzioni è coperto dal segreto di Stato, ma tutti i rapporti concordano sul fatto che la Cina ne detenga il record annuale davanti all'Iran. Secondo Amnesty International, si è passati dalle 6.100 condanne e 4.367 uccisioni ufficiali del 1996 alle 6.000 condanne e 3.400 esecuzioni del 2007. Fonti ufficiose cinesi alzano la soglia a circa 8.000 detenuti uccisi all'anno, con una diminuzione del 50% in 10 anni. Se però si considera la percentuale delle esecuzioni rispetto al numero degli abitanti, la Cina rientra nella media dei paesi che conservano l'usanza di uccidere chi viola la legge. Che Pechino cerchi progressivamente di voltare una delle sue pagine più buie è un fatto. In febbraio ha ridotto da 68 a 13 i reati possibili di pena di morte. Lo scorso anno ha vietato la fucilazione, spesso di gruppo, optando per una iniezione letale, praticata anche su furgoni che si spostano nelle varie regioni. Da 4 anni le sentenze capitali devono essere riviste e approvate dalla Corte Suprema, che nel 10% dei casi le ha già tramutate in carcere a vita. Rimane irrisolto uno dei nodi essenziali. Oltre che per i reati di violenza fisica e di abuso economico finanziario, in Cina si può essere condannati a morte per vaghi reati di opinione. È il caso dei dissidenti, delle minoranze etniche e dei fedeli di vari credi, perseguiti per minaccia alla sicurezza nazionale, separatismo o associazionismo segreto e sovversione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Stop per due anni alle esecuzioni in Cina, di Giampaolo Visetti, dalla Repubblica di giovedì 26 maggio.